Grazie, grazie agli organizzatori del convegno per avermi invitato. Chiaramente, quando sono stato invitato per parlare del ruolo dei media nel promuovere la fratellanza e la pace, ho avuto un momento di difficoltà perché se vediamo in questo momento che cosa fanno i media tradizionali, ma anche quelli nuovi, lo scenario non è dei più semplici. Tra i compiti dei mezzi di comunicazione dovremmo infatti sempre attribuire la massima importanza alla promozione del dialogo tra le persone, i gruppi sociali e quindi anche le diverse comunità religiose. E dopo decenni di dominio dei broadcast media, dove il messaggio pioveva dall'alto, i fruitori avevano un ruolo esclusivamente passivo, con il nascere di Internet, che è una piattaforma di comunicazione globale a due vie, molte speranze furono riposte proprio nell'opportunità di condividere e contaminare culture diverse con l'obiettivo di abbattere muri e favorire una maggiore fratellanza tra le comunità. E quello che invece abbiamo potuto riscontrare negli ultimi anni, purtroppo, è stato quanto fossero ingenuamente ottimistiche queste previsioni. Però nel compiere questa constatazione non dobbiamo commettere un errore fatale. Quando parliamo del dilagare dell'odio nel dibattito pubblico, e accade sempre più spesso in convegni, incontri, seminari, libri, articoli, eccetera, diamo spesso per scontate alcune premesse che dovrebbero invece essere oggetto stesso della discussione. Una delle premesse più consolidate, per esempio, è quella per cui l'odio di cui dovremmo preoccuparci è quello veicolato dalle piattaforme online. Secondo questa visione è la rete a diffondere contenuti ostili che solo dopo inquinano la società, la politica, il linguaggio sempre più sguaiato dei media tradizionali. Questa tendenza nel vedere nella la transizione tecnologica come la causa del degrado del discorso pubblico è non solo fuorviante, ma persino autoassolutoria, perché proviene proprio da quel mondo dei media precedenti, tra virgolette, quindi giornali, radio, televisioni, che intenderebbe così da un lato descrivere il problema come neonato e dall'altro chiamarsi fuori da qualsiasi responsabilità nell'aver avviato il processo da molti decenni, senza scomodare, le opere di Popper, Chomsky, McLuhan, eccetera. Il momento in cui i media hanno smesso di fornire alle persone degli strumenti interpretativi della realtà ha coinciso con il frangente in cui hanno rinunciato a svolgere una funzione pubblica e sono diventati a tutti gli effetti un'industria. Ma attenzione, non è il fatto in sé di costituire un'industria ad aver determinato l'inizio del degrado. Semmai tale degrado è stato avviato dallo scivolamento verso un modello economico fondato prima sulla qualità del contenuto, poi pian piano sempre più invece fondato sull'infotainment, cioè sulle leve identitarie, sul presidio dell'attenzione. E non a caso molti identificano questo momento, della perdita dell'innocenza del sistema mediatico con l'inchiesta del Watergate, che è considerato l'ultimo reale disinteressato vagito del giornalismo d'inchiesta classico. Ben inteso, il giornalismo d'inchiesta, cioè quello che scopre fatti che servono alle persone per costruirsi una propria opinione informata, orientando con rigore del racconto il consenso politico, il giornalismo d'inchiesta esiste ancora, anche se è in via d'estinzione. Il problema è che ai tempi del Watergate era proprio il giornalismo d'inchiesta che ti faceva preferire un giornale a un altro. Era esso stesso l'elemento chiave del modello di business e quindi di sostentamento dell'impresa editoriale. Oggi al massimo è una foglia di fico da sbandierare quando è necessario, per esempio, difendere l'etica dell'informazione, tra virgolette, vera, inesorabilmente analogica rispetto a quella online, che invece sarebbe fondata tutta sulle fake news, sul gossip, sul sensazionalismo. Purtroppo non è il lavoro dei pochi veri giornalisti rimasti nelle redazioni dei grandi giornali a salvarli dalla bancarotta. Ciò che li tiene in piedi ancora è soprattutto la difesa del controllo della catena distributiva da un lato, che va incontro ai lettori più anziani, tradizionalisti, e la raccolta pubblicitaria, la difesa della raccolta pubblicitaria dall'altro lato, all'interno di sistemi informativi sempre più digitali, ma in realtà restii a un vero cambiamento. Tra l'altro, parlando di raccolta pubblicitaria, tipicamente un sistema oligopolistico, anche il passaggio alla distribuzione online non ha affatto determinato lo stravolgimento del modello dei ricavi che qualcuno individua nell'apparizione del famoso mercato dei dati. E quindi, così come il sensazionalismo, spesso foraggiato proprio dall'odio, spostava l'attenzione delle persone vicino alla pubblicità una volta, negli anni 90, oggi l'infotainment, che è ancora fondato sulla polarizzazione e quindi sull'odio, purtroppo serve ad aumentare le interazioni sulle piattaforme online e a liberare maggiore quantità di dati nelle conversazioni. C'è negli atti del convegno, troverete una tabella che qui adesso non sto a raccontare perché non abbiamo tempo, che spiega tutte le tristi similitudini tra un modello che consideriamo vecchio e l'apparentemente moderno, contemporaneo, distopico modello di Facebook e di Twitter. In realtà siamo ancora lì, non è cambiato molto. Entrambi i modelli si fondano sulla capacità di chiudere i fruitori dei contenuti in recinti. Recinti che, se una volta si fondavano sul controllo della distribuzione, cioè se non vieni sul mio canale distributivo non avrai il prodotto editoriale, oggi si fondano sul controllo dell'agenda della discussione. Se ne parla sulla mia piattaforma perché sono tutti qui. Devi venire per forza qui. Se un giorno qualcuno si inventasse una Facebook più bella, armoniosa e pacifica, il motivo per cui non ci andremmo è semplicemente perché non ci sarebbe la gente dentro. Ora, è chiaro che queste due industrie, quella dei vecchi media e dei nuovi media, che sembrano in guerra, per esempio sul fronte del copyright, in realtà hanno già una fortissima alleanza tra di loro. Sono molto interdipendenti. Non solo sui social si parla solo o quasi di ciò di cui si parla sui giornali e in televisione, ma molto spesso nei talk show reali, nei talk show serali, le discussioni più violente scatenate su Facebook e Twitter sono di nuovo protagoniste. Quindi c'è questo continuo scambio. Il circuito dell'odio, quindi, che alimentava i media commerciali a partire dagli anni Ottanta, è ancora il circuito di oggi, della polarizzazione delle leve identitarie, dello scontro verbale che anima le piattaforme digitali. Ora, rimane poco tempo per cercare di capire come spezzare questo cortocircuito. Io vorrei mettere subito da parte quello che è il mio sogno personale. Lavoro con tanti operatori del mondo dei media e il mio sogno sarebbe poter andare da ogni inserzionista e creare un consorzio di inserzionisti, diciamo così, illuminati, che decidono di non fare più pubblicità sui media che titolano contro singole categorie tutte le mattine, religiose, di particolari orientamenti, di qualsiasi genere, no? Ma cercando di essere un pochino più concreti e guardando invece nei prossimi decenni, ecco, una cosa importante è vedere che non esiste solo il modello pubblicitario. Secondo Emily Bell, che studia i modelli di business da molto tempo, l'informazione non può essere libera, veramente libera, finché si fonda solo sulla raccolta pubblicitaria. E allora l'alternativa qual è? Tornare a pagare la qualità del contenuto? Bene, questo è qualcosa che può fare magari il New York Times, intanto per le straordinarie risorse che ha. Però c'è un problema, vedete, il New York Times, che ha il cosiddetto paywall, cioè voi vedete i primi 10 articoli online gratis e poi dall'11esimo vi chiede di abbonarvi, c'è un problema. Il New York Times pretende ancora da solo di darvi tutta una visione del mondo, probabilmente la più professionale, la più anche eticamente rigorosa, quello che volete, però non mi augurerei mai un futuro in cui alla fine la soluzione è un'unica società privata che vi dà una sola visione del mondo. E quindi forse conviene non solo a confrontare diversi possibili voci, diverse possibili aziende editoriali, ma anche diversi modelli. Per esempio il Guardian ha deciso ancora di rimanere in modo anche un po', come si dice, apparentemente ottuso, ma non è così, di rimanere completamente gratis. Potete leggere tutto quello che c'è sul Guardian ancora gratis e vi assicuro che, per esempio, quello che racconta il Guardian in questi giorni sulle convulse vicende di Westminster è uno dei racconti più straordinariamente professionali che possiamo leggere. Su cosa si fonda allora il Guardian se è gratis? Sì, naturalmente sulla pubblicità, ma non è schiavo della pubblicità. Il Guardian si fonda anche molto sulle donazioni volontarie dei lettori in tutto il mondo, e qui la lingua inglese sicuramente li aiuta, ma anche sempre di più su dei mecenati, su dei grandi donatori, e questo è un modello che si sta affermando. Allora, per chiudere, io direi tutto ciò che è informazione di qualità è il miglior antidoto al discorso d'odio ed è anche la migliore premessa per promuovere il dialogo tra i popoli, le culture e le comunità diverse. Se il dibattito politico, come è accaduto per esempio in Italia di recente, era scaduto a livelli infimi, era anche una questione di contesto, è bastato riportare per un breve periodo la discussione nelle sedi istituzionali e improvvisamente tutti i retroscenismi, tutti dietro le quinte su cui si fondano le maratone televisive sono passati brevemente in secondo piano. Gli italiani sembrano tornati a vedere più chiaro e forse magari anche a guardarsi negli occhi. Io credo che restituire dignità attraverso i giusti contesti a tutto il dibattito pubblico sia la premessa fondamentale per tornare a mettere in comunicazione diverse visioni del mondo e anche le diverse fedi religiose, con le diversità dei rispettivi retroterra culturali al centro, che possono tornare a costituire un patrimonio di ricchezza e non una minaccia alla fratellanza tra i popoli. Certo, una internet aperta, con nuovi modelli remunerativi, libera dalla schiavitù della contrapposizione, dell'estremizzazione in circuiti chiusi, come sono di fatto oggi le piattaforme di social networking, potrebbe tornare a costituire un fattore decisivo per riallacciare il dialogo, permettendoci di tornare a percepire la nostra appartenenza alla comune famiglia umana. Grazie.